maschere e i fantocci attorno a me. Sento qualcosa di vero che si fa strada e senza te diventa insopportabile, un peso che mi schiaccia giù. Come l'ennesimo sguardo tuo che mi immagino di fronte a me. Il mio cuore ormai ha trovato il link e tra una sigaretta e un altro drink, yeah, sta provando a scappare verso quel prato del nostro amore, dove quel soffio di vento mi porto da te. C'è dovunque tu sei, dovunque io vada, la luce degli occhi tuoi che mi scalda la vita, mi mostra la strada che è lunga ma da oggi in poi. No, non posso negare, non posso mentire, mi giunge diritta come un lampo una freccia appuntita che toglie il respiro, che scivola come un sapone nella vasca dei pensieri miei, yeah. Non mi riconosco e tu chi sei? Vicina o lontana mi stringi nel tuo maglione di lana, caldo e colorato come te. Sono disperatamente jazz, yeah. C'è sempre troppa gente attorno a me, confondono anche le lucciole col brillare di mille sigarette. Dio, qui che mi abbraccio da solo perché cerco disperatamente te, yeah. Tra chi beve tequila, Bacardi, chi solo un caffè. Buonanotte a tutti voi angeli che volate lontani lassù, ma stanotte vorrei solo un angelo che avesse quel nome e quel viso che sia tu. Quel nome e quel viso e sei tu.